l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro appuntamento settimanale con l'Europa che ci piace presentare, che ci piace respirare. La quotidianità economica e politica dell'Unione viene raccontata da Radio 24. Noi il sabato cerchiamo anche altri punti di vista, altre sfumature. Un programma in collaborazione con Euronet, questo network paneuropeo, tante voci, tante nazioni insieme per così contribuire ad avere una visione comune della nostra Europa. Euronet, che proprio questa settimana ha celebrato un grande evento, c'è stata infatti la proclamazione dei vincitori degli Euronet Awards, questo concorso di cui noi abbiamo parlato tante volte. Si è conclusa una bella esperienza per chi ha avuto la possibilità di partecipare, e quindi apriamo la puntata andando a rivivere quelle che sono state le sensazioni che si sono vissute a Bruxelles. I woke up to find a quiet Brussels at 7 a.m. While walking along with my trusty companion, the recorder, we both closed our eyes and opened our ears. I could hear the metro escalator to a nascent station on my left. As I walked a couple steps further, I heard the starting engine of a car. I was overwhelmed by the sounds from outside, but without seeing, I always feared I could hit someone, trip, or go the wrong way. People who suffer from visual impairment experience this uncertainty every time they wake up, go outside, or go to sleep. La voce che state ascoltando è quella di Andrei Purcărea, è rumeno ed è il ragazzo, il giovane che ha vinto il concorso, la prima edizione degli Euronet Award. Il tema era quello dei diritti dei cittadini europei. Su questa tematica i giovani hanno avuto la possibilità di fare inchieste, fare reportage, raccontare e raccontarsi. Il tutto è stato seguito in diretta dal nostro Sergio Nava, che a Bruxelles c'era, e Sergio qua con noi. Ciao Sergio. Ciao Federico, buongiorno. Allora, tanti neocolleghi in questa giornata di festa per Euronet. Sì, davvero una bella giornata è stata quella di martedì, quando al Parlamento Europeo, nello spazio Vox Box, si sono riuniti i cinque finalisti insieme a una platea di giovani studenti un po' da tutta Europa, e anche gli europarlamentari e lo stesso presidente dell'Europarlamento Martin Schulz. È stata veramente l'occasione di vedere dei talenti del giornalismo, talenti in erba del giornalismo all'opera. È stata veramente una bella giornata. Mm-hmm. Ecco, e che sensazione hai avuto da fuori, da osservatore esterno? Avevano il piglio giusto? C'era l'emozione? Erano lì per gioco? Erano lì perché ci credevano? Sicuramente che c'è una nuova generazione di giovani giornalisti che ha una visione aperta, europea, dei fatti. Lo possiamo dire noi che siamo in Italia, che spesso abbiamo l'impressione che il nostro giornalismo sia un po' troppo provinciale, troppo ripiegato su se stesso e sui piccoli fatti della nostra piccola penisola. Ebbene, invece è stato bello vedere che ci sono giovani che hanno una visione globale, parlano più lingue e riescono a fare anche reportage, come dire, cross border, che in qualche modo vanno a prendere più punti di vista, più culture, e in qualche modo si sta creando una generazione di giornalisti europei. Veramente una bella notizia. Tra i cinque finalisti c'erano anche due italiani, due ragazze italiane che sono qua con noi. Elena Roda, ciao Elena. Ciao, buongiorno. Ciao, buon sabato. Ti trovi ad Amburgo ora, se non erro? Mi trovo ad Amburgo, okay. Sotto la neve. È sotto la neve, quindi ci accomuna questo bianco e questo freddo. E Jessica Verzulli di Chieti. Ciao Jessica, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buon sabato. Allora Elena, chi sei? Presentati, qual è la tua scheda, appunto, il tuo biglietto da visita? Allora, io ho 28 anni, sto studiando in Europa, sto facendo un master in giornalismo e globalizzazione all'Università di Amburgo e all'Università di Aarhus in Danimarca. Ho studiato in Italia e poi ho pensato bene di guardare un po' oltre. Ho deciso di fare questa esperienza europea, molto interessante, un master con 29 nazionalità diverse, quindi sicuramente una bella esperienza. E tu il reportage su quale argomento specifico lo hai realizzato? Il mio reportage è sui diritti delle donne, soprattutto nell'ambito lavorativo. È stata un'idea che mi è venuta perché sono molto interessata a quello che le donne possono veramente fare nella loro carriera, e tante volte è difficile per le donne perché a loro viene spesso chiesto, quando si vogliono appunto trovare un lavoro, fanno un colloquio di lavoro viene chiesto se ha intenzione di avere una famiglia. Ho capito. Quindi, insomma, è difficile per loro trovare un lavoro spesso. Mm-hmm. Quindi hai analizzato questo aspetto fondamentale, complicato, anche con risvolti crudi molte volte da quello che si legge appunto nella nostra cronaca. Jessica, tu invece come sei arrivata agli Euronet Awards? Beh, io sono arrivata veramente per caso, perché a differenza un po' di tutti gli altri ragazzi candidati sin dalla prima fase, quindi dai primi 19 che a novembre approdarono a Bruxelles, io ero l'unica che non ha mai studiato giornalismo e mai pensato effettivamente di fare la giornalista in maniera diciamo seria per il mio futuro, tant'è che studio servizi giuridici per l'impresa all'Università d'Annunzio di Pescara, quindi avevo tutt'altre idee per la mia vita, sono sempre stata convinta su quello che volevo fare. Invece questa passione per il giornalismo mi ha un po' spiazzato, ho iniziato leggendo ovviamente come tutti il quotidiano la mattina e fino ad arrivare poi a scrivere dei miei articoli, ad aprire un blog e quindi a trovare questa passione per la scrittura, per il giornalismo, per l'informazione. E quando ho ascoltato dalla pubblicità di Radio 24 la possibilità di fare questo concorso mi ci sono buttata, effettivamente poi alla fine è andata bene. Quale argomento hai scelto tu? Io ho scelto l'argomento delle coppie di fatto e sui diritti dei cittadini europei mi è sembrata che questa fosse una tematica in cui veramente c'è una disomogeneità di normativa tra i vari paesi degli stati membri che ovviamente viola i diritti dei cittadini europei, non solo omosessuali che magari decidono di sposarsi, ma anche di coppie eterosessuali che non vogliono sposarsi, vogliono semplicemente convivere, e quali vengono negati dei diritti in alcuni paesi mentre in altri ne hanno, quindi una situazione molto peculiare. Ecco Jessica, la stessa domanda poi la farò anche a Elena, quale Europa avete conosciuto facendo questa esperienza, nel senso è cambiata la vostra visione nei confronti dell'Europa, Jessica? Ah, moltissimo, io l'ho detto anche a Sergio Nava quando ci siamo incontrati a Bruxelles, mi ha stupito molto perché ecco, da come diceva Sergio Nava, qui c'è una mentalità del giornalismo molto provinciale ma anche il sistema italiano funziona molto, molto diversamente da quello europeo, ecco, uno fa un concorso, partecipa a un concorso pensando subito che magari ci sarà e raccomandato il ritorno, invece veramente in Europa viene valorizzato il merito e se hai talento e se sei capace vai avanti senza assolutamente nessun tipo di scorciatoie, quindi questo è molto bello, ma soprattutto ho scoperto che all'interno del Parlamento europeo ci sono una serie di iniziative, di attività che veramente dovrebbero, noi dovremmo conoscere, l'informazione italiana dovrebbe captare in maniera più attiva, perché è veramente un'attività molto importante anche per il nostro paese. Insomma, quella grande opportunità che si chiama appunto Europa. Elena, è stato così anche per te? Sì, è stato sicuramente così anche per me, sicuramente una bella Europa, una bella nuova generazione di giornalisti e tanti ragazzi che hanno voglia di fare, e questo è molto, molto importante. Siamo di diversi paesi, ovviamente abbiamo diversi background, però vogliamo tutti cercare di migliorare qualcosa, di cercare veramente di capire, di andare a fondo alle questioni. Infatti anche gli altri, ovviamente anche gli altri ragazzi hanno fatto dei reportage molto molto interessanti su delle tematiche molto attuali, e ho visto una bella Europa, c'è tanta energia. Grazie davvero a tutti e complimenti ancora per la vostra bella esperienza. www.euronet.eu è l'indirizzo del portale per conoscere tutti i dettagli della prima edizione degli Euronet Awards appena conclusa. Grazie ancora e buon sabato. Un Europost-it, ci fermiamo per le informazioni perché sta viaggiando e poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Tutti al Parlamentarium a lezione d'Europa. Sono stati più di 60.000 i cittadini europei che hanno visitato il Parlamentarium, il centro visitatori del Parlamento europeo, da quando è stato inaugurato circa 100 giorni fa. Sono 1.000 gli studenti che hanno giocato a fare i parlamentari grazie agli strumenti multimediali del centro. Il percorso didattico trasporta i giovani europei nel cuore del Parlamento e insegna loro le dinamiche dei processi decisionali e il ruolo dell'Europa nella loro vita quotidiana. Il Parlamentarium si rivolge ai visitatori in tutte le 23 lingue ufficiali dell'Unione Europea ed è accessibile tutti i giorni senza bisogno di un pass. Le sessioni di gioco possono essere prenotate all'indirizzo parlamentarium@europarl.europa.eu, mentre per maggiori informazioni potete visitare il sito europarl.europa.eu/visiting/it. l'altra Europa. Eccoci qua ancora con l'altra Europa. Vi ricordo che tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare li potete trovare sulle nostre pagine in Facebook, facebook.com/l'altra Europa, oppure su Twitter, @ Federico Taddia. Inizia il nostro viaggio e si parte dalla Finlandia, dove domani ci sarà il ballottaggio per le elezioni presidenziali, e questi sono gli spot elettorali. Mä haluan presidentin, joka ei käske, vaan joka keskustelee. Mies. Ihminen. Presidentti. Arvot todella kohdalla. Rento. Kiva. Suvaitsevaisempi, vihreämpi, turvallisempi Suomi. Peloton. Ennakkoluuloton. Lämmin. Inhimillinen ja humaani. Hän on ihminen, joka osaa kuunnella. Mun mielestä on hienoa saada olla mukana tässä joukkueessa, voittajajoukkueessa, ja Sauli Niinistö on ehdottomasti karismaattisin näistä kaikista ehdokkaista. Siksi Sauli. Insomma, siamo entrati nel clima elettorale finlandese anche noi per capire quello che sta accadendo e per capire quelle che sono anche le aspettative legate a queste elezioni. E per parlarne abbiamo invitato Ari Mäki, che è il vice capo delegazione dell'ambasciata finlandese a Roma. Buon sabato, Mäki. Buon sabato. Buon sabato. Come sta? C'è la neve a Roma? C'è freddo? Si sente a casa? Sì, c'è freddo e tanto neve come in Finlandia, e poi però non è tanto freddo come in Finlandia. No, però è un bel panorama, credo, insomma, è sorprendente. Comunque la neve a Roma è sempre uno strano effetto. Giusto. Allora, domani è una giornata molto importante per la Finlandia, perché ci sono le elezioni. E qual è lo scenario? Cos'è successo nel primo turno e chi sono i candidati? Prima di tutto vorrei ricordare che le elezioni presidenziali in Finlandia avvengono ogni 6 anni, e la nostra presidente signora Halonen non può presentarsi per un terzo mandato. Adesso, al primo turno, il 22 gennaio, avevamo 8 candidati, 2 donne e 6 uomini. E siccome nessun candidato ha al primo turno la maggioranza dei voti, sì, i 2 candidati che hanno ricevuto il più alto numero di voti partecipano al ballottaggio del 5 febbraio, quindi questa domenica, e chi ottiene il maggior numero di voti diventerà il presidente. Certo. La particolarità è che 3 candidati ben conosciuti e importanti e con grande esperienza politica non hanno superato il primo turno. Per esempio Paavo Lipponen dei socialdemocratici, 2 volte primo ministro, è arrivato solo 5º. Raurinen del centro, ministro già negli anni 70, è arrivato 3º, e Timo Soini del partito dei veri finlandesi, che aveva ottenuto un grande consenso alle elezioni politiche l'anno scorso, è arrivato 4º. Mm-hmm. Ma c'è voglia di cambiamento, quindi questo vuol dire che c'è voglia di facce nuove? Sì, esatto. Mm-hmm. E quali sono i candidati che si sfideranno domani? Qual è il loro profilo? Quali sono le loro caratteristiche? Al primo turno è passato Sauli Niinistö, partito di coalizione nazionale, ex capo del partito conservatore, ex ministro delle finanze, e che secondo gli ultimi sondaggi sembra essere il candidato favorito, con oltre il 62-64% di preferenze. Ma, con grande sorpresa, il candidato dei Verdi, Pekka Haavisto, ha ricevuto 18,6% è arrivato 2º, ed adesso la sua popolarità sta aumentando, arrivando al 37-38% negli ultimi indagini. Quindi, insomma, potrebbero esserci sorprese. Entrambi i candidati, benché siano diversi, molto diversi tra di loro, però entrambi hanno un forte spirito europeista. Quali sono le posizioni rispetto all'Unione Europea? Entrambi i candidati sono a favore dell'Unione Europea e dell'euro, però il candidato dei Verdi, Pekka Haavisto, ha una posizione un po' più critica. Considera anche gli effetti negativi della continua crescita, con conseguente impatto negativo sull'ambiente. Il candidato l'ha visto, tra l'altro è gay dichiarato. Secondo lei in Finlandia l'orientamento sessuale di un candidato può influenzare gli elettori in qualche modo? Gli elettori meno giovani potrebbero esserne influenzati. Il fatto che Haavisto sia rappresentante dei Verdi ed anche gay dichiarato potrebbe effettivamente essere un problema per gli elettori delle zone rurali. Vorrei però ricordare che la nostra attuale presidente Halonen è stata una volta presidente dell'RTK finlandese negli anni 70, è stata una madre single, è nata anche da una madre single. La nostra presidente ha sempre lottato per la pari dignità dei diritti umani. Uh-huh. E questo dimostra, secondo me, che in Finlandia queste realtà sono accettate ed essere un omosessuale non costituisce generalmente un grande pregiudizio. Allora, negli ultimi anni la Finlandia è cambiato molto. Certo, ma c'è attesa per queste elezioni? Attesa, sì, forse che Niinistö vincerà questa domenica le elezioni, okay. Mi sembra, sì. Grazie davvero per averci dato un quadro della situazione, Mäki, e ci ritroveremo sicuramente qui però in una delle prossime puntate dell'Altra Europa per capire appunto la Finlandia, che strada ha preso e quali sono anche le attese legate alla vostra nazione. Buon sabato. Ok, grazie altrettanto e buon sabato. Europostit. Viking Run, la gara di pattinaggio ecosostenibile. Altro che piste e laghetti di campagna. In Svezia si pattina sul lago Mälaren lungo gli 80 km che separano la città di Uppsala da Stoccolma. La gara si chiama Viking Run e avrà luogo il 14 febbraio. Se siete esperti pattinatori e amate i paesaggi mozzafiato, siete ancora in tempo ad iscrivervi. Se non siete allenati per le lunghe distanze, ci sono sempre le gare da 50 e da 20 km, la staffetta e la gara per bambini, più leggere ma ugualmente suggestive. La manifestazione è totalmente ecosostenibile. I mezzi pubblici portano ai blocchi di partenza, gli sponsor sono socialmente responsabili, non c'è materiale cartaceo e la tazza per il tè caldo ve la dovete portare da casa. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale vikingarunnet.com. Ich container lieber konventionell, als dass ich bio einkaufe, weil ich keine Nachfrage schaffen möchte. Ich finde es gut, die Dinge möglichst lange zu nutzen und dafür zu sorgen, dass möglichst wenig weggeschmissen wird, weil ich diese ganze Lebensmittelvernichtung total gruselig finde. Also angesichts von Hunger auf der Erde, angesichts von Klimawandel, angesichts von Transportproblematiken, also alles was ich nicht unterstützen will. Und deswegen finde ich es auf jeden Fall sinnvoll. Quello che state ascoltando è un estratto da un documentario intitolato Taste the Waste, che assaggia gli avanzi. Si parla infatti di spreco, è il tema scelto da Euronet questa settimana come approccio comune, ma lo spreco è anche un tema fortemente scelto dall'Unione Europea. Perché? Perché in tempo di crisi probabilmente si accorge che insomma tutto ciò che viene gettato via può avere invece anche ritorni economici, quindi non solo il lato etico fondamentale importante, ma anche proprio quello di vantaggio strettamente economico. Di spreco di cibi in particolare, ma di spreco in generale, da diversi anni in Italia c'è chi ne parla, c'è chi porta avanti progetti concreti per la lotta allo spreco, e stiamo parlando di Andrea Segre, del professor Andrea Segre, preside della Facoltà di Agraria a Bologna, fondatore del Last Minute Market e ideatore del progetto Un anno contro lo spreco. Ciao Andrea, benvenuta all'Altra Europa. Ciao Federico. Un progetto importante, un progetto di fatto nato all'interno dell'Università di Agraria di Bologna, ma che è arrivato fino al cuore d'Europa. Beh, insomma, eravamo molto dentro i rifiuti, perché poi lo spreco alimentare, prodotti ancora buoni, diventano rifiuti che ci stanno pian pianino sommergendo. Allora abbiamo pensato di fare una campagna di comunicazione per rendere questo spreco visibile e per poter fare qualcosa per ridurlo. E ci ha dato udienza, è vero, la commissione agricoltura del Parlamento europeo, abbiamo portato all'inizio di questa campagna, ottobre 2010, una dichiarazione congiunta, l'abbiamo chiamata, firmata da tanti universitari, società civile, parlamentari, obiettivo 2025 ridurre lo spreco di almeno il 50%, della metà. È stata sorprendentemente veloce, diciamo, la Commissione, perché ha preso la dichiarazione, ci ha lavorato, hanno fatto degli emendamenti, l'hanno portata in plenaria il 19 gennaio e voilà la risoluzione per ridurre gli sprechi, rendere più efficiente la filiera agroalimentare, il vero obiettivo 2025 con azioni concrete, ridurre proprio dalla metà tutto ciò che si getta via. Un percorso complessivo che è iniziato nel 2010, anno contro lo spreco del cibo, l'acqua nel 2011, lo spreco dell'energia, il focus del 2012, lo spreco zero nel 2013, il tutto ciò culminerà nel 2014, quando sarà l'anno europeo per la lotta allo spreco. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa, stiamo parlando di spreco, stiamo parlando dell'anno europeo contro lo spreco di cibo che sarà il 2014, ma partiamo da questo per affrontare il tema dello spreco a 360 gradi, www.unannocontrolospreco.org, il sito dove potete trovare tutte le iniziative, dove potete trovare anche quello che è lo spirito di questo percorso comune. Con noi c'è l'ideatore, il professor Andrea Segre. Allora Andrea, cosa vuol dire fare lotta contro lo spreco? Dacci qualche numero, perché la parola spreco vuol dire tutto e vuol dire niente, invece ci sono cifre che sono impressionanti. Sono impressionanti. Prendiamo l'Italia, noi abbiamo calcolato quanto si spreca dal campo fino alla grande distribuzione, non siamo riusciti a entrare nei ristoranti e nelle nostre case, dove probabilmente c'è molto. Beh, il dato riferito al 2010 sono 11 miliardi di euro in valore, significa lo 0,7% del PIL, tre volte quanto si spende nella cooperazione internazionale, una manovrina insomma, quindi un valore enorme che gettiamo via. Fra l'altro produciamo, trasformiamo, distribuiamo e poi non consumiamo e dobbiamo sbaltire con altri costi. Ecco, questo è assurdo se uno ci pensa bene. Devo dire che l'Europa è stata molto attenta, c'è sensibilità a partire dalla Commissione Agricoltura, ma tutto il Parlamento ha lavorato e ha votato a larghissima maggioranza una risoluzione che contiene una serie di misure che, se poi gli Stati membri effettivamente applicano, la riduzione dello spreco si verrà. Cito per esempio le etichette, dove c'è molta confusione, il preferibilmente entro, il prodotto secco, ecco, in realtà genera sprechi, perché qualcuno dei consumatori, forse meno informati o meno attenti, pensa beh, il prodotto è scaduto, in realtà si può consumare ben oltre questa scadenza, per esempio. Tu prima hai citato l'Italia, ma immagino sia un male comune quello dello spreco. È un male assolutamente comune, direi che è un sistema costruito sullo spreco. Io pensavo fosse un fallimento del mercato, in realtà è il valore aggiunto, perché noi dobbiamo produrre, indebitarci per comprare e poi quando non abbiamo neanche pagato, nel frattempo abbiamo rifiutato o sprecato. Do il dato mondiale, così si capisce. 1,3 miliardi di tonnellate si gettano via dal campo alla tavola, stima della FAO, ovunque. Certo, è più grande lo spreco se l'economia, fra virgolette, è più ricca e lo spreco è più a valle, più verso il consumatore. Se l'economia è più povera, paesi in via di sviluppo, si spreca lo stesso ed è un po' più a monte, verso l'azienda agraria, per dire. Si spreca ovunque, quindi è un problema che veramente deve essere sull'agenda, e lo è in qualche modo, dell'Europa, ma del mondo vorrei dire. E in tempi di crisi è assolutamente necessario agire. Prima hai citato la data di scadenza come elemento di criticità. Ci sono altri elementi, altre misure che secondo te sono fondamentali e che danno anche l'esempio concreto del cosa significhi cambiare le cose? Sì, tante ce ne sono e sono contenute, mi ha fatto piacere, molte di più di quelle che avevamo suggerito nella risoluzione europea. Per esempio le vendite sotto costo, cosiddette, nel senso che quando tu il prodotto, mettiamo uno yogurt, è vicino alla scadenza, tu consumatore viziato lo lasci lì, viene portato via e distrutto. Ecco, invece se lo vendessi al 70%, al 50%, ci sarebbe un consumatore che non è proprio ambiente, che se lo comprerebbe. Invece, e lo dico contro i nostri interessi, la Spinut Market raccoglie da, diciamo, gratuitamente in beneficenza, ma è un tampone il nostro lavoro, quello di Last Minute Market. Ci siamo resi conto, per questo è il senso della campagna europea, che non è dando ai poveri l'avanzo dei ricchi che risolve il problema, dobbiamo sprecare tutti di meno. E ci sono benefici economici per tutti? Sì, in realtà abbiamo messo in piedi un sistema applicando, e siamo all'università, la teoria dei giochi, si chiama win-win, tutti i portatori di interesse, tutti gli stakeholder guadagnano qualcosa e gliel'abbiamo dimostrato. Il donatore, che non paga per dire la tassa sui rifiuti, il donatore del surplus, il beneficiario ovviamente ottiene dei prodotti gratuitamente, tutta la comunità perché si hanno meno rifiuti e quindi anche la multi-utility che gestisce i rifiuti è contento, e quindi diciamo è un sistema positivo. Pensare che poi lo spreco lo vediamo come negativo, diventa un'opportunità. E noi in questo abbiamo imparato molto anche nel leggere una nuova società, una nuova economia un po' diversa, che si basa sulle relazioni, sul dono invece che soltanto sul profitto. Cibo, acqua e energia sono i tre focus di questi tre anni. C'è una sensibilità diversa su questi tre elementi? Cioè è più facile fare sensibilizzazione che ne so, sul cibo rispetto all'acqua o rispetto all'energia? Sì, è decrescente. Il cibo ha preso moltissimo. L'acqua se ne spreca tantissima, che è contenuta nel cibo, non soltanto in quello che si getta via, ma in quella che è servita per produrre, trasformare. Ho visto che ha preso un po' di meno. Tutti sono molto attenti agli sprechi domestici, all'uso, diciamo, civile dell'acqua, che però è pochissimo, è 7-8% rispetto a quello agricolo. Però insomma abbiamo avuto attenzione. Sull'energia non lo so ancora, perché l'anno contro lo spreco di energia è appena iniziato. Certo è che la sensibilità, forse anche grazie a questa campagna e alla crisi direi soprattutto, è aumentata, e questo secondo me è un bene. Insomma un bel lavoro, tanta strada avete percorso, ma appunto tutto ciò è un punto di partenza, perché adesso insomma dal vostro muovervi tutto ciò si è allargato all'Europa. In bocca al lupo a te e a tutto il tuo team, e ricordiamo il sito www.unannocontrolospreco.org. Ciao Andrea, grazie e buon sabato. Ciao Federico, buon sabato anche a voi. Europost-it. È in Portogallo, la capitale europea della gioventù 2012. European Youth Capital è il titolo che il Forum Europeo dei Giovani dal 2009 assegna ogni anno ad una città europea. La prima a diventare la Mecca europea dei giovani è stata Rotterdam, seguita negli anni successivi da Torino e Anversa. Nell'anno europeo della solidarietà intergenerazionale, il titolo è passato a Braga, città portoghese a 70 km da Porto. La radio universitaria Dominio ha dato il via al progetto Europa Viva, per curare le attività previste durante tutto l'anno nella città portoghese. L'obiettivo è promuovere la cittadinanza attiva, avvicinare i giovani all'Europa e incentivare il dialogo e l'apprendimento interculturale. Convegni, festival musicali e saloni di orientamento professionale sono solo alcuni esempi. Per maggiori informazioni visitate il profilo facebook.com/BragaCEJ2012. Hi everyone, my name is Nadia and I'm here to show you 3 minutes of Edge Riders. What do we do at Edge Riders? In Edge Riders you ask and are asked hard questions. You get to turn them around in your head in the company of people from all walks of life. And in doing so you discover people from whom you can learn and who can learn from you. Here's how it works. Start by getting to know the themes that we're exploring together in the community. These themes are called campaigns. You find them in the una comunità virtuale, un esercizio di democrazia dal basso. Non è facile da definire questa piattaforma assolutamente innovativa, dove permette ai giovani, ma non solo, di diventare parte attiva, di diventare parte propositiva. Si chiama Edge Riders, è una sorta di apripista, chi si prende dei rischi, chi è più avanti degli altri. Ma per capire quello che è il vero obiettivo di questa piattaforma abbiamo invitato la direttrice creativa, si chiama Nadia El Himam ed è qua con noi. Ciao Nadia, buon sabato. Buon sabato. Buon sabato. Eri tu tra l'altro forse la Nadia che parlava prima, che presentava il progetto o no? Questo è giusto. Questo è giusto, ok. Sì. Allora, Nadia, un video DIY, come diciamo, fai da te. Esatto, stiamo parlando di partecipazione, quindi anche nella presentazione è giusto mettersi in gioco. Perché mettersi in gioco è un po' la parola chiave, credo, di questo social, una sorta di social network per la democrazia partecipativa. Spiegaci tu che cos'è, qual è l'idea di fondo appunto di questa piattaforma online. Guarda, EdgeRiders nasce come un esercizio di democrazia dal basso, ma con una richiesta e una domanda posta dalle istituzioni europee. Sì. È uno dei primi esperimenti rivolto alle nuove generazioni. Mm-hmm. Se vedi le statistiche sui giovani europei, sono allarmanti. Disoccupazione, ritiro dall'impegno civile. Vediamo che sta emergendo un'idea di una generazione perduta, se vuoi. Invece, secondo EdgeRiders, questa generazione strana, diciamo, sì, potrebbe essere quella più creativa e adatta alla condivisione. Okay. Il fatto che la nuova generazione non somiglia di genitori non vuol dire che è una cosa sbagliata. Certo, è diversa, ma non vuol dire, sì, che sia migliore o peggiore. Quindi una generazione cosiddetta perduta, dove c'è una sorta di apatia, dove non c'è voglia di partecipare, voi invece cercate di riattivare questa presenza andandoli a cercare là dove forse sono, cioè in internet, usando, sì, questo mezzo per condividere contenuti, idee, opinioni. Infatti stanno cercando di proporre dei cambiamenti nelle politiche dell'Unione Europea, ma attraverso la condivisione dei giovani che non sono apatici, sono infatti molto attivi. Mm-hmm. Ma quindi le richieste, le domande arrivano direttamente dalle istituzioni europee? Giusto. Mm-hmm. E ci puoi fare un esempio concreto del come funziona? Sì, concretamente noi lanciamo sui dei temi di discussione, temi riguardanti le policy l'Unione Europea sui giovani. Sì. Delle missioni è chi vuole a dire qualcosa si può unire. Ok. Concretamente il lancio della missione avviene attraverso un post sul sito e chi partecipa riceve dei punti. Mm-hmm. Per esempio, come fai voi per guadagnare soldi per il lavoro, o come sono gli esperimenti nuovi di trovare nuovi modi con chi possiamo vivere insieme, con le costellazioni familiari nuove. Ok, quindi insomma ci sono tematiche molto larghe, e le istituzioni europee fanno questa domanda, arrivano risposte, queste risposte acquisiscono dei punti a seconda anche della partecipazione, della condivisione, e poi cosa ritorna alle istituzioni? C'è un processo un po', sì, lungo. Okay. A fine di questo processo abbiamo un team di ricerca che fa un briefing delle idee raccolte. Perfetto. Si traducono in una proposta di riforma delle politiche europee sulle gioventù. Sì, benissimo. Che verrà poi validato dalla comunità con un processo di tipo wiki. Ok. E infine verrà messo sul tavolo delle istituzioni europee. Ok, quindi insomma è proprio questo, cioè condividere e fare anche massa critica e cercare di estrapolare da tutti questi commenti, da tutti questi contributi, quella che può essere una linea, quella che può essere appunto una proposta operativa da far arrivare alle istituzioni. Il sito, che abbiamo già pubblicato anche sulle nostre pagine in Facebook, è edgeriders.ppa.coe.it. È in inglese, però la partecipazione è facile ed è bella, credo sia una cosa importante da divulgare anche qui in Italia. Grazie davvero, Nadia, so che eri preoccupata per il tuo italiano, l'esame è andato benissimo, sei stata promossa. Chiedo scusa. A pieni voti. Ok, ciao e grazie, buon sabato. Grazie a lei, ciao. L'altra Europa. un'auto, una cornamusa, un violino e una chitarra. Tante volte abbiamo detto che la cultura europea si può fare, si può respirare anche, o forse soprattutto, attraverso la musica, e questa è una dimostrazione. Loro si chiamano i Birkin Tree, fanno musica irlandese da una trentina d'anni, sono l'unica formazione italiana, ma forse una delle poche al mondo ad essere, diciamo così, autorizzate a suonare anche in Irlanda, a esibirsi regolarmente in Irlanda. Hanno fatto più di 1700 concerti, portando appunto nel mondo la musica folk nel senso proprio nobile del termine, irlandese. E con noi c'è uno dei fondatori del gruppo, e diamole benvenuto a Fabio Rinaudo. Ciao Fabio, buon sabato. Ciao, buongiorno a tutti. La musica folk ti piace come definizione? È quella corretta? Correttissima. Okay. Nel significato reale della parola è correttissima. Birkin Tree, intanto il nome, cosa significa? Significa in lingua scozzese betulla. La betulla è un albero che ha una grande importanza nell'ambito della mitologia celtica, come tante altre piante, come puoi immaginare. Certo. E com'è nato questo amore per la musica irlandese? Com'è stato l'incontro? Ma per me, sai, è nato attraverso l'ascolto di un disco. Probabilmente dentro di me c'era una ricerca verso questo tipo di musicalità, verso la cornamusa, verso questo ritmo, questi strumenti. E poi ho ascoltato un disco di un gruppo irlandese, si chiamava Tannahill Waivers, e fu un amore a prima vista. Ecco, amore a prima vista che vi ha dato tantissime soddisfazioni, e soprattutto, certo, soprattutto vi ha fatto entrare anche nel circuito irlandese, cosa non facile, credo. No, non è assolutamente facile, però devo dirti che abbiamo avuto veramente tantissime soddisfazioni. Per dirtene una, 2 anni fa io ho fatto il tour italiano con i Chieftains, immagino che è un gruppo che sia molto... probabilmente il gruppo più famoso che c'è in Irlanda e nel mondo, e io ricordo quando, facendo l'università, passavo i miei pomeriggi a studiare e ascoltare tutti i dischi dei Chieftains. Mi sembrava così una cosa lontanissima, invece dopo anni e anni mi sono trovato al loro fianco sul palco a suonare. È stata un'esperienza molto bella. Ecco, ma cosa significa, cosa si prova da italiano suonare la musica irlandese e questa musica portarla in tutta Europa, o comunque in tutto il mondo? Che contaminazione culturale è? Beh, sai, la musica irlandese adesso, nell'ambito della musica etnica, la potremmo considerare come una sorta di jazz. Il jazz ormai è suonato in tutto il mondo, e nell'ambito delle musiche tradizionali la musica irlandese è suonata davvero in tutto il mondo, in tutta Europa, ovviamente in tutte le Americhe, e anche in Giappone, per esempio. Noi siamo stati intervistati da uno scrittore, un musicista, che ha scritto un bellissimo libro sulla musica irlandese nel mondo in Giappone, quindi c'è una pagina dedicata ai Birkin Tree scritta completamente in giapponese, e ci sono ormai musicisti bravissimi da ogni parte. È chiaro che ognuno di noi porta comunque nel suonare questo linguaggio, che è veramente ricco, veramente profondo, poliedrico, e porta comunque quella parte legata alla sua nazione, alla sua terra, e questa è una cosa che piace molto anche agli irlandesi, perché loro comunque sentono una differenza che forse per noi a volte è piccola, ma per loro è molto significativa. Ecco, ma sono pezzi che componete voi, o andate proprio a ripescare nella tradizione, nel repertorio tradizionale irlandese? Beh, entrambe le cose. Ovviamente tu devi conoscere centinaia e centinaia di pezzi irlandesi, e pensa che è una produzione continua, una tradizione che non è mai morta, quindi ci sono sempre musicisti che compongono nuove melodie. E allo stesso tempo, quando senti che è il momento, dalle tue dita escono nuove melodie che hanno un linguaggio corretto, suonano all'irlandese, e quindi è una grande soddisfazione. www.birkintree.com è il vostro sito, l'abbiamo già pubblicato nelle nostre pagine in Facebook. Domani avrete un concerto, domani mattina, domenica alle 11 al Teatro dei Filodrammatici a Milano, e andiamo a sentire un altro assaggio di un'altra vostra composizione. Soft westland breezes blow, among the bergs of the Sunday show, Mavis sings for cheerio. Sweet to crow flowers, early bell, index Questi sono i Birkin 3 con noi, Fabio Rinaudo. Fabio, un'ultima domanda. Noi parliamo spesso di Europa unita, quindi proprio di incontro tra culture diverse. Che valore ha, la tua esperienza credo lo possa testimoniare, che valore ha portare l'etnico, portare il locale, portare il folk in giro oltre i confini? Serve per unificare? Assolutamente sì, guarda, la musica è un linguaggio universale, questo permette di conoscere veramente tantissime persone, anche se non parli la stessa lingua, e poi l'umano sentire ci accomuna. E quindi nell'ambito proprio della musica tradizionale, la musica tradizionale ricorda i sentimenti che sono alla base dell'uomo, e vedi che in ogni tradizione comunque vengono cantati, vengono suonati, vengono celebrati, e quindi ognuno porta agli altri la propria esperienza e il sentire la ricchezza di ogni cultura nazionale. È un modo veramente molto bello per sentirsi vicini, e ti senti davvero vicino. Grazie davvero, la vostra storia lo racconta. Io vi faccio anche un invito, magari prossimamente si potrebbe fare anche un live qui da Radio 24 per portare un po' di sapore europeo anche nel nostro studio. Assolutamente sì, quando vuoi. Benissimo. È un grandissimo piacere. Ciao Fabio, grazie davvero. Ciao. Grazie davvero. Grazie tante. Anche questa grazie è l'altra tante. Europa. Il grazie va a tutta la squadra: Margherita Ina, Viola Frifa, Giorgio De Luca, che come hanno scritto la puntata, Filippo Aureggia, la parte tecnica, Alessandra De Luca, che ha dato la voce ai nostri post-it che potete ritrovare in Facebook, su Twitter o sul nostro sito radio24.it. Grazie ancora, l'appuntamento è a sabato prossimo. Ciao!